Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti, buona scuola ai vostri bambini. Sono le 11:08. Fabio Cantadori in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi come sempre in redazione. Numero verde 824 0024, messaggi al 349 238 6666. Andiamo a sentire di che cosa ci occuperemo oggi. Dove va l'ago della tua bilancia? Dalla sdraio alla sedia, la postura cambia. Imparare una lingua per allenare il cervello. Quanti, dove e come? E che cosa intendete farne? Parliamo di chili in più, quelli che abbiamo preso in vacanza. Il riposo, si sa, ammorbidisce la linea. Non sempre un male, però a volte si esagera. Allora oggi, a grande richiesta, proviamo a capire come tornare in forma in modo intelligente, quindi sicuro. E la garanzia di successo è il nostro ospite, il dottor Franco Berrino, direttore del Dipartimento di Medicina Preventiva e Predittiva all'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Dottor Berrino, buongiorno. Buongiorno. Dottore, allora iniziamo a dire che i chili di troppo vanno trattati con i guanti. La fretta non porta nulla di buono, quindi parola d'ordine gradualità. Certo, gradualità, e poi si tratta di fare un cambiamento per tutta la vita, non un cambiamento per perdere un chilo o due. Insomma. Non il cambiamento di settembre. Allora, guardiamoci allo specchio. Dove li abbiamo presi? Girovita, fianchi, cosce? Perché, dottor Berrino, ogni costituzione, ogni persona ha un po' il suo punto debole. E chiederei ai nostri ascoltatori di raccontarci, chiamando il nostro numero verde, ad esempio, se sono più dei tipi a mela o a pera. Certo. Queste sono due costituzioni che rendono, no, subito chiara l'idea. Dottore, possiamo utilizzare questa distinzione descrivendola un po', se ce ne fosse bisogno? Certamente, è utilizzata anche in ambiente scientifico questa descrizione, no? La tipologia a pera vuol dire aver messo grasso sulla pancia, ed sì, è la cosa peggiore, no? Non bisogna mettere grasso sulla pancia. Anche i magri con la pancia, con la pancetta, no? Non ci piacciono. Hanno un rischio, no, non solo non ci piacciono esteticamente, ma hanno un rischio più alto di mortalità, proprio di un insieme di patologie, no? La pancia è un indice di un disturbo metabolico. Mentre i tipi a mela, abbiamo detto, tipi a pera sono fianchi. I tipi a pera sono le belle ragazze con i fianchi un pochettino robusti, insomma. Sì, che quelle possono piacere. Che quelle possono piacere, e comunque non è così negativo, no? Anche se non va bene nemmeno quello, essere certo, grassi, non, però il danno peggiore è la cosiddetta obesità addominale. Di questo parleremo, ma diteci anche quanti chili avete preso in vacanza, se li avete presi rapidamente. Beh, qualcuno li avrà persi, no? Spero. E magari invece qualcuno è riuscito a eliminarli facendo un pochino più attenzione alla dieta, muovendosi di più. Mi sembra, dottor Berrino, che potrebbe essere utile, ma me lo dica lei perché è lei il nostro esperto, sapere anche se dalle persone che ci chiamano si sono abitué della dieta. Ci sono persone che sono sempre a dieta e rincorrono questo peso forma, dimagriscono, poi mollano la dieta, ingrassano, insomma il classico effetto, certo, yo-yo. Esattamente, sì, sì. Oppure se invece è stato, insomma, si sono lasciati un po' andare in vacanza, adesso hanno quella gonna che tira o insomma la cintura devono allentarla un po', ma insomma. Sapete cosa si dice dei nutrizionisti, no? Che sono i più fortunati di tutti perché non perdono mai i clienti, no? Nel senso che uno dimagrisce un po', no? E poi però ringrassa, e allora va da un altro nutrizionista, no? Certo. E continua a fare diete, no? E non è la buona strada per risolvere il problema. Vogliamo sapere anche i vostri anni, e vorrei chiedere al dottor Berrino se è vero o se è una scusa. Dopo gli anta si fa più è più facile ingrassare, si fa anche più fatica a perdere peso. Ma nelle donne c'è il fenomeno della menopausa. Sì. No? Al momento della menopausa è bene essere prudenti perché è più facile mettere su pancia, no? Sapete, gli uomini tipicamente ingrassano nella pancia. Sì. No? Già a 40 anni molti uomini hanno già la pancia, no? Le donne invece mettono la ciccia un po' dappertutto, a volte facendo delle belle forme, no? Però dopo la menopausa, quando si avvicinano un po' agli uomini, nel senso che le ovaie smettono di produrre gli ormoni femminili, no? Sì. Allora tendono anche loro ad ingrassare sulla pancia, no? Ed è questo che è bene cercare di evitare, no? Però dimagrire si può a tutte le età, non c'è limite d'età. parleremo anche con il dottor Berrino, anzi se avete delle domande da fare riguardo ai vostri bambini, adesso si aprono le scuole, i bambini tornano a frequentare anche le mense scolastiche. Le mense scolastiche, le merendine, i distributori nelle scuole che a Milano ci sono ancora, sì. E che vale la pena che i bambini non bevano bevande zuccherate. Togliete la Coca-Cola, scusate, dico la Coca-Cola ma intendo tutte le bevande zuccherate, non togliete le bevande zuccherate dal vostro frigorifero, no? E la linea dei vostri bambini, soprattutto alla salute, ci guadagnerà. Esattamente. 824 0024, questo è il nostro numero verde a disposizione, i messaggi al 349 238 6666. Una mela al giorno. I nostri bambini adesso si staranno accomodando in classe, noi sicuramente da qualche tempo invece ci siamo già tornati in ufficio. La sdraio che abbiamo citato nel nostro titolo è ormai per molti di noi un lontano ricordo, adesso tocca sederci davanti alla scrivania e quindi riprendere un po' le sane abitudini, perché stare 8 ore seduti sappiamo che può essere faticoso e può essere anche un problema per la nostra schiena. Allora ci ripassiamo un po' le regole di una corretta postura insieme al dottor Respizzi, che è tornato a trovarci, responsabile del Dipartimento di Riabilitazione e Recupero Funzionale di Humanitas. Buongiorno dottore. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Lei si muove molto, sta seduto poco. No, purtroppo anch'io, come tutti quelli che stanno davanti a una scrivania, passo molte ore seduto e bisogna trovare dei trucchetti per evitare di essere completamente bloccati da queste cattive abitudini che abbiamo, visto che si lavora in una città. Allora? Ma ci sono alcune abitudini, ad esempio una cosa che mi piace molto, che ho visto bene in questi giorni, è che finalmente anche Milano ha messo a disposizione delle biciclette. Sì. Questa è una cosa bellissima secondo me, perché le persone per andare a lavorare possono lasciare la macchina magari lontano dall'ufficio, prendersi questa bici che costa anche molto poco, sì, e muoversi in maniera utile anche per il traffico naturalmente con le biciclette. E io è un consiglio che do, immagino che non in tutte le città sia così, ma ad esempio i milanesi potrebbero farlo. Un'altra cosa invece che si può fare, che costa veramente zero, è quella di parcheggiare la macchina lontano dall'ufficio. Dobbiamo porci un obiettivo, che è quello che dice anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità, di fare almeno 10.000 passi al giorno. Sì. Sono circa 5 chilometri, quindi basterebbe parcheggiare la macchina un po' lontano, farsela a piedi e naturalmente questo prevede che io debba dedicare almeno un'oretta al giorno al movimento. So già che adesso arriveranno mail che di tutti che mi dicono lei è matto perché non c'ho tempo, non sono sempre l'ultimo secondo, ma questo è un altro aspetto che bisogna imparare a gestire. Certo, organizzazione. Organizzazione. Questa cosa è facile da ricordare, 10.000 passi al giorno, sono circa 5 chilometri, nessuno di noi li fa. E invece è fondamentale sia per sviluppare la capacità di consumare dei grassi con un'attività aerobica blanda tipo questa qui, sia per il mantenimento di una corretta funzionalità dell'apparato cardiovascolare e quindi vivere più a lungo. Senta, invece dopo questi 10.000 passi arriviamo in ufficio e dobbiamo stare seduti, come ci sediamo? Ah, allora questo è un discorso invece molto più pratico. Certo. Io consiglierei di non stare seduti tante ore, ma ogni ora di alzarsi per almeno 5 minuti e fare un po' di esercizi di stretching, di allungamento, soprattutto dei muscoli posteriori della gamba, quindi flettendo il tronco in avanti senza forzare naturalmente, dei muscoli lombari, e quindi fare in modo che questa zona, che di solito viene accorciata dalla quotidianità, dalla postura sulla sedia, riprenda una corretta elasticità. Questo è molto facile da fare, magari ci guarderanno un po' quando lo facciamo in ufficio. Facciamolo in coppia con il vicino di scrivania. Facciamolo in coppia, se è simpatico il vicino. O la vicina. O la vicina, meglio ancora, brava Nicoletta. Altre indicazioni, dottor Respizzi? Fare le scale. Quando si è in ufficio, fare le scale invece che prendere l'ascensore. Ecco, sembrano consigli molto semplici, talmente semplici che poi non si fanno. Invece, ecco, però bisogna pensarci, tanto si può fare, 2 o 3 piani a piedi fanno bene. Buoni propositi allora, per mantenere in salute i nostri muscoli tutti. Poi tanto stamattina a Milano piove, c'è un traffico tremendo, quindi sono già in ritardo, come posso fare questa cosa qua? Ma vabbè, va bene, ma noi ci sentiremo, i nostri ascoltatori magari ci scriveranno per farci sapere se sono riusciti a mettere in pratica questi piccoli consigli che sono veramente un investimento per il nostro benessere. Dottor Respizzi, la saluto, la ringrazio. Buongiorno, buona postura. Grazie, buongiorno. Pronto soccorso. Oggi saliamo sulla bilancia, questo per tradizione è un po' il giorno più indicato della settimana per farlo, perché la dieta, dottor Berrino, si inizia sempre di lunedì. Forse quello giusto deve ancora venire, ma intanto noi iniziamo a pensarci. Oggi direi cominciamo dalla teoria, poi verrà, no? Il lunedì. Per alcuni forse è già venuto, io vorrei sapere se in linea con noi abbiamo il mio amico Gianluca Nicoletti. Gianluca! Sì, sono qua. Eccolo. Tu sei salito sulla bilancia e hai avuto... No, io sono ipocondriaco, non posso sentire parlare di malattie, di malessere, di corpo, quindi con una grande sofferenza, solo per amore sto qui. Ah, questa è una dichiarazione, eh? Registriamola. Sì, Senti Gianluca, però... Posso ripetertela ogni istante della tua giornata? Bello, sì. Allora ti chiamo ogni minuto. Senti Gianluca, però tu con il peso vai benissimo. Sai, non mi sono pesato, non lo so, peserò 74, 73... Forse meno, 70, non lo so, sono molto variabile. Io ho fatto un grande salto un anno fa, che mi sono accorto c'avevo la pancia, sono sempre stato magro, mi vedevo le foto, facevo schifo, stolardo, e sono passato dalla taglia 50 di pantalone alla taglia 48, quindi sto bene adesso. Senti, cosa hai fatto Gianluca per cambiare? Niente, mi facevo schifo, sono andato da una dottoressa, mi ha messo elettrodi dappertutto, mi ha pesato, misurato, mezza giornata lì, non so esattamente cosa, mi ha detto quanta acqua beve. Dico, beh, acqua poca veramente, dice lei berrà se no mezzo litro, se va avanti così si spappolano i reni, devi bere un litro e mezzo al giorno. Mi ha dato anche delle pasticchine da mettere nell'acqua. L'ho fatto per una settimana, poi mi sono stufato. C'ho sempre, senti, la bottiglietta dietro, come... Sentite, sì. Come voi milanesi che girate sempre con la bottiglietta. Ma la porto dietro così, un po' per hobby. Non è che ne bevo molta. Compenso con Margarita e Assenzio. Ho sentito la tua puntata, senti. Però senti, soprattutto mi ha cambiato la vita dal punto di vista alimentare. Mangio molto la mattina. E la mattina uscivo di casa in fretta e furia, molto presto, quando facevo la trasmissione presto all'alba. E non mangiavo nulla, cominciavo a mettere qualcosa in bocca verso le 1:30, così. E mangiavo di fretta e furia. La sera tornavo a casa, mia moglie fa la giornalista anche lei, ci vedevamo verso le 10:30, cenavamo, l'unico momento in cui stavamo veramente assieme, e mangiavamo come scrofe. E adesso ho fatto esattamente il contrario. E lì è da vedere, il risultato è da vedere, il 48 sei arrivato di taglia, una splendida figura, sì. Soprattutto hai buttato giù i chili nella pancia che, dottor Berrino... Sono lì c'erano, a Gianluca... fisico io, la pancia grossa. Beh, non è vero che non sei così malaccio, hai anche le spalle, Gianluca Nicoletti ha anche delle belle spalle, ma io tornerei alla tua pancia perché poi so che devi andare, perché Gianluca dice mi facevo schifo, in realtà il dottor Berrino come medico la pancia invece preoccupa, il grasso addominale sappiamo che fa male, quindi meglio toglierselo. Ha fatto bene Gianluca con questo Perfetto. Cambiamento di stile di vita? Sicuramente, questa è una delle cose da fare, no? E anche dimostrato che non è difficile mandare giù la pancia, no? È più difficile mandare giù la ciccia da altre parti, no? Ma io solo lì l'avevo, dottore. Benissimo. Adesso è una tavola di acciaio temperato. Ah, fantastico. Però... vogliamo una foto della pancia di Gianluca Nicoletti, a tartaruga magari. Tu puoi tassarla quando vuoi, scusa. Va bene, allora vieni che così la prossima volta... Va bene, allora io ringrazio Gianluca Nicoletti sperando che venga ancora a trovarci, perché sennò Fabio Cantadori è già qua che mi mette il cartellino rosso, anzi giallo e ammonito, ecco. Gianluca, un bacio, vieni presto. Grazie. Torna presto a trovarci. Andiamo ad Alberto dalla provincia di Milano. Buongiorno Alberto. Buongiorno a lei, ai suoi ospiti e a tutti gli ascoltatori. Io avrei una domanda per il professor Berrino. Sì. Sentendolo nelle sue trasmissioni, le sue linee guida alimentari sono abbastanza chiare. L'unica cosa che mi scappa è comprendere un'esatta colazione per adulti e bambini e adolescenti. Alberto ci invita a nozze. Allora, dottor Berrino, iniziamo proprio dalla mattina. Certo. Ma non ci sono delle grandi differenze fra adulti, bambini, adolescenti, magari ci sono delle differenze fra chi fa più attività fisica, chi fa meno attività fisica per la colazione, no? L'importante è avere una colazione che non alzi troppo la glicemia, eh? Sapete, i nostri vecchi contadini, no? Al mattino mangiavano l'avanzo della pasta fagioli fatta la sera prima e potevano lavorare fino a mezzogiorno, dalle 6 del mattino fino a mezzogiorno nel campo senza fatica, perché questi i legumi rallentano la velocità di assorbimento del glucosio, no? E questo ti permette quindi di avere zucchero per tutta la mattinata. Se invece si fa una colazione molto dolce con le porcherie, questi fiocchi che inventano adesso, con farine ricostruite costruite piene di zucchero, di miele, no? Allora questo ci fa alzare molto la glicemia rapidamente, no? E dopo un'ora, dopo due ore siamo in ipoglicemia, cioè più zucchero si mangia più si va in ipoglicemia in realtà, perché c'è una reazione insulinica. E quindi conviene evitare queste porcherie, mangiare magari invece, vanno bene i fiocchi, ma vanno bene allora i fiocchi d'avena, i muesli senza zucchero, no? Difficilissimo trovarli, lei lo sa, quasi. Sì, però si trovano, ecco. Si trovano anche nei supermercati, ma se ci sono 50 muesli diversi, no? E poi ce n'è uno di quelli, sì, che vanno bene, insomma, bisogna leggere le etichette, ecco, no? E anche in tutte le altre cose, nei biscotti che si mangiano a colazione, nelle merendine, queste cose qua, leggiamo le etichette. In particolare, se c'è scritto sciroppo di glucosio, oppure sciroppo di glucosio e fruttosio, che sono poi la stessa cosa, no? Non compriamo quella porcheria. È una delle principali cause dell'obesità negli Stati Uniti, no? Perché il fruttosio, e così anche le cose dolcificate con il fruttosio, no? Che possono andare bene per un diabetico per non andare a squilibrarsi un giorno, certo, che non ha altro da mangiare, però alla lunga gli fa male. Il fruttosio ha un effetto perverso. Il fruttosio, si dice, aumenta la resistenza alla leptina. La leptina è quell'ormone prodotto dal tessuto adiposo che dice al tessuto al cervello: guarda che c'è tanta ciccia, riduci l'appetito, no? Il fruttosio impedisce di dare questa comunicazione, no? Per cui leggiamo le etichette sempre, no? Se c'è fruttosio non compiamo. Lasciamole lì, no? E anche se ci sono i dolcificanti artificiali non va bene. Però lei sa che ai bambini il sapore dolce piace, soprattutto al mattino. Certo, certo. Infatti mettiamoci l'uvetta sultanina. Se ai bambini non piace l'uvetta, perché a volte non piace l'uvetta, frulliamola, no? Prendiamo un'albicocca secca, frulliamo anche quella, no? E questo dà un dolce molto naturale, no? Mettiamo la frutta, no? Nel nostro yogurt. Non compriamo gli yogurt zuccherati, no? Compriamo gli yogurt naturali, no? Non diamoglieli freddi da frigorifero, no? E ci mettiamo un po' di frutta dentro, no? Una buona frutta dolce, no? E questa è una cosa molto, molto sana al mattino. Poi se le mamme hanno voglia, possono fare i biscotti che io faccio in 3 minuti, insomma. L'abbiamo già data la ricetta dei biscotti in 3 minuti, ma la possiamo ridare, vero dottor Berrino? Certamente. Perché è facile e la fanno anche le mamme pasticcioni come me. Se voi mettete a bagno la sera prima i fiocchi d'avena con un po' di succo di mela e ci mettete l'uvetta sultanina, se piace ai bambini, no? Se no la frullate, allora ci vuole un minuto in più per frullare, oppure ci mettete comunque qualche albicocca secca tagliata a fettine e ci mettete una manciata di mandorle tritate e lasciateli tutta la notte bene. Al mattino prendete questo pastone, no? Sì. E mettete un pizzico di sale, sempre nei dolci ci vuole, e fate delle cucchiaiate sulla vostra teglia, no? Antiaderente. Sì, no? Poi si può usare la carta forno, che così non dobbiamo ungerla. È perfetta, forno caldo in 10 minuti, un quarto d'ora, questa cosa qua, vengono fuori i biscotti. Tempo che di preparare il caffè, apparecchiare la tavola, voilà. E gliene potete dare due in tasca per andare a scuola, in modo da non prendere le porcherie dal distributore automatico. Dategliene di più, perché così possono offrirla anche ai loro compagni. Giusto. E quindi fate, no? Facciamo rete. Stiamo a Milano perché ci chiama Michele. Buongiorno. Buongiorno. Michele deve abbassare la radio, mi dice Fabio. Anzi, no, ormai non me lo dice, mi fanno più solo i gesti. Michele, sono diventato. Buongiorno. Buongiorno. Sta bene, sì. Michele? Abbastanza. Bene. Allora, io volevo chiedere una cosa al dottore. Io ho 45 anni e peso quasi 93 kg. Sì. Ecco, sono alto un 85. È in regola, pronto? Sì, siamo qua. Ecco, in regola, io la mattina bevo solamente il caffè, poi a mezzogiorno mangio normale, però non riesco a smaltire neanche un chilo, non so come devo fare. Senta, ma Michele, lei ha un po' di pancia o è tutto di... cioè, dov'è? Abbastanza. Il problema è questo mangiare normale. Effettivamente tutti noi mangiamo normale, cioè mangiano quello che mangiano tutti, e l'obesità aumenta, no? E vuol dire che questo mangiare normale non va bene. Sì. No? Quello che noi facciamo, no? Quello che noi consigliamo, quello che facciamo nei nostri studi, no? È di consigliare di mangiare delle cose che nello stesso volume abbiano meno calorie, cioè gli alimenti non industrialmente raffinati. I cereali integrali, le verdure... tutto quello che viene raffinato, cioè le cose a base di farina 00, di pane bianco, no? Sono cose che fanno ingrassare. Le verdure vanno bene tutte fuorché le patate, no? e in particolare le patatine, questi snack, queste cose qua, no, che sono un mangiare normale purtroppo, no, ma che sono un mangiare che non fa bene a tante cose e fa ingrassare. Però per Michele che vuole iniziare, dare una mossa, sai che ogni tanto noi diciamo ho il metabolismo addormentato, certo, faccio, certo, faccio e non scendo di un etto. La nostra raccomandazione che do spesso è quella di fare un periodo di quello che noi chiamiamo il digiuno di riso, no? Digiuno di riso vuol dire mangiare solo riso integrale per alcuni giorni, una settimana se uno si sente, masticando molto molto bene. No? Questo permette al nostro organismo di risettarsi, no? Di darsi una mossa proprio. No? Il riso integrale solo, non il riso bianco. Il riso integrale è l'alimento migliore per chi desidera dimagrire e bisogna masticarlo a lungo. E questo è una... però naturalmente comporta un certo impegno, comporta che non vai al bar e al ristorante con gli amici in quella settimana che fai questa cosa, no? E che, però mi piace questa cosa del reset, quindi è una settimana di... possiamo anche fare 3 giorni. Anche 3 giorni sono utilissimi, certamente, no? Uno mangia il riso integrale, se lo fa saltare in padella al mattino, no? Senza grassi, poi si ha fame durante la giornata, si mangia delle gallette di riso integrale, a mezzogiorno si mangia un bel piatto di risotto integrale condito magari con il gomasio, con i semi di sesamo tostati, e alla sera una bella cena con una minestra di riso poi integrale. Poi per un mese di riso integrale gli esce fuori dagli occhi. Esce fuori dagli occhi, magari. Però no, intanto può perdere qualche chilo e soprattutto rimettere in grado il proprio organismo di funzionare bene, quindi... Cioè per darsi una smossa. Chi è che non può farlo assolutamente? Non ci sono delle controindicazioni di questa cosa, no? A meno che ci sia una malformazione dell'intestino, ci sono certi casi di stitichezza dovuti a una malformazione dell'intestino in cui le fibre sono pericolose, o chi ha una grave colite, insomma. Non va bene. Certo, però in linea generale potremmo dare proprio un po' una botta con una botta con il riso integrale. Fate, ci proveremo. Siamo tornati insieme al dottor Franco Berrino. Dottore, lei ha proposto prima dei mercati un 3 giorni, lei ha detto anche una settimana, io ho tirato dietro 3 giorni. 3 giorni già sono un... Ecco, di riso integrale per dare un po' una smossa, un reset al nostro organismo, magari appesantito da qualche chilo di troppo e soprattutto, tra virgolette, un po' intossicato da uno stile alimentare non corretto. Moltissimi gli SMS, anche le telefonate, ma allora questo riso integrale si può condire con l'olio extravergine d'olive, posso aggiungere la verdura? La dieta si chiama digiuno di riso, vuol dire che si mangia riso integrale e basta, no? Sì. È chiaro che poi va benissimo normalmente aggiungere l'olio extravergine al riso integrale, le verdure al riso integrale, è un ottimo piatto che ci fa bene tutti i giorni, insomma. No, però se fate questa cosa fatela con rigore, se no non fatela, non c'è nessun problema, insomma, non è che sia... Sì, no, nel senso che è suggerita e consigliata, però ci vuole un certo rigore. Se no se uno comincia ad aggiungere questo, quello, quell'altro, non si parmigiano perde. Parmigiano e pezzetto di prosciuttino, per la cosa, allora alla fine mangiamo quello che vogliamo. Volevo chiederle, un ascoltatore mi scrive sempre per a proposito di dolcificare gli alimenti, se va bene il miele, e un altro invece che cosa ne pensa lei come dolcificante del malto d'orzo. Certo, ma i mieli possono essere dei buonissimi prodotti, no? In particolare i mieli buoni, insomma i mieli fatti con un fiore particolare, però usateli a merenda, usateli dopo aver fatto l'attività fisica, sì. non a colazione, no? Anche i bambini, diamogli dopo che hanno fatto la partita a pallone, che sono proprio, perché dopo un'attività fisica i muscoli hanno un grande bisogno di glucosio, no? Nel miele c'è glucosio libero, no? E allora questo glucosio che entra nel sangue, no? Andrà subito a nutrire i muscoli. Al mattino, dopo una notte di riposo, no? I nostri muscoli non hanno assolutamente bisogno di glucosio, quindi questo miele andrà ad alzarci la glicemia, no? E di fare delle complicazioni metaboliche. Inutili. Inutili, certamente. Il malto è un po' meglio dello zucchero, sicuramente. Noi consigliamo sempre di usare il malto come il metadone, no? Per gli assuefatti lo zucchero, no? Passiamo al malto e riduciamo progressivamente la dose. Quando mi ha spiegato la cosa del miele, no? Mi ha fatto venire in mente una domanda da farle. Quindi per le persone che vogliono ritornare nel peso forma, non è solamente un problema di entrate e uscite delle calorie, ma anche di distribuzione degli alimenti? e anche di distribuzione di alimenti e anche proprio del tipo degli alimenti, no? Parlavamo prima dei, del sciroppo di glucosio e fruttosio, no? Dei dolcificanti artificiali che sono da evitare per chi desidera dimagrire, sono una specie di imbroglio questa cosa, hanno poche calorie ma attivano dei meccanismi che adesso non abbiamo tempo penso di spiegare, sì. No? Che fanno aumentare di più l'assorbimento dello zucchero, no? E quindi conviene mangiare più carboidrati alla mattina, no? Sì. In modo da avere lo zucchero che abbiamo bisogno di bruciare nel corso della giornata, ma carboidrati a rilascio lento, no? Mangiamo il pane integrale, non il pane bianco, no? Mangiamo un'altra cosettina da fare molto in fretta i bambini, sono le frittelle con la farina di ceci, sapete, la farinata ligure, no? Con meno olio. Buonissima. Però non c'è bisogno di mettere olio, no? Se l'olio serve solo per ungere la padella. E adesso che viene la farina di castagne, mescolate la farina di ceci con le castagne, è una cosa che si fa in un minuto proprio, no? Anche lì conviene metterla a bagno la sera, no? Fare questa pastella, no? Sì. E al mattino delle cucchiaiate sulla piastra, no? e vengono fuori subito le crepe. Buone. Sono buone, fanno piacere, no? E sono naturalmente dolci se ci mettete la farina di castagne anche. Quindi senza bisogno di tante aggiunte. Non c'è bisogno di mettere altro. Poi no. E poi ci si sopra. Abitua, perché è dura all'inizio, ma poi gradatamente ci si abitua. Bisogna abituare il gusto ad un gusto meno dolce. Purtroppo l'industria mette sempre troppo zucchero in tutti i prodotti, no? Per cui ci abitua male. Noi stiamo cercando di dimagrire, lo facciamo gradualmente perché abbiamo capito dal dottor Berino che è proprio un cambiamento di stile di vita, no? E ci vuole tempo, ci vuole attenzione, determinazione anche nel leggere le etichette. Ma dottor Berino, lei sa che per continuare noi dobbiamo anche vedere qualche piccolo risultato, e allora ho invitato il professor Antonino Di Pietro. Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno a tutti. Dermatologo di Milano e presidente dell'ISPLAD. Professor Di Pietro, trattamenti che possono aiutare le persone che stanno perdendo peso o cercano di farlo a vedersi un pochino più tonici, ecco. Sì, sì. Lei sa che spesso perdiamo peso e poi ci ritroviamo un po' tutti mollicci, allora c'è qualche cosa di serio? Perché qua diventa veramente un problema. Certo, è un problema importante perché man mano che il volume del corpo diminuisce, la pelle può restare un po' più lassa o, come si dice comunemente, un po' più molle. Si sta cercando di agire recentemente sul connettivo. Il connettivo è quella parte del tessuto che rappresenta l'impalcatura sia del derma e quindi della pelle profonda, sì. Sia anche delle capsule che avvolgono, cioè dell'involucro che avvolge il muscolo. Stanno ottenendo dei risultati incoraggianti utilizzando la radiofrequenza. La radiofrequenza è una forma di energia che in medicina viene utilizzata da molto tempo, ma si è visto che sotto l'effetto della radiofrequenza le ferite, ad esempio, guariscono prima. Tutto questo ha fatto sorgere tutta una ricerca e si è osservato che una pelle che tende a rilassarsi sotto l'effetto di questa energia della radiofrequenza viene ad essere stimolata. Le cellule che producono elastina e collagene si riattivano o si stimolano, e questo può essere utile per frenare quel rilassamento. Attenzione, non è un intervento chirurgico, sarebbe troppo bello, quindi non bisogna pensare a chissà quali miracoli, però riusciamo ad ottenere qualcosa in più grazie a questa fonte di energia, e i primi risultati sono incoraggianti. Per cui si utilizza la radiofrequenza recentemente. Non è dolorosa. Non ha controindicazioni. Si avverte una sorta di calore perché la radiofrequenza sotto forma sono delle onde, sì. Di energia che raggiungono le cellule, inducono una vibrazione che dà luogo a una sensazione di calore. Ecco, quindi si avverte questo calore. Non è una scorciatoia, vero professor Di Pietro? Questo non è una scorciatoia, è un aiuto, un premio quasi. È un aiuto, è molto importante e fondamentale l'alimentazione. Io ho ascoltato con grande interesse tutto quello che avete detto e sicuramente questi sono i consigli più importanti, sono le cose da far per prima. Poi un aiuto in più lo si può ottenere grazie a queste nuove fonti di energia applicate sulla cute, sui tessuti un po' più profondi che possono aiutare. Possono aiutare anche a, vedendo i risultati, possono convincerci, ci incoraggiano a continuare. Professor Di Pietro, grazie per essere stato con noi, buona giornata. Buona giornata a tutti. Giancarlo, buongiorno, è arrivato il suo momento. Grazie innanzitutto di avermi dato la possibilità di intervenire. Ci racconti, Giancarlo? Niente, io volevo chiedere al dottore, un bambino di 6 anni, sì? E diciamo dopo tutte queste ferie, fine scuola, eccetera, diciamo che comunque il bambino tendenzialmente ha 5-6 kg di troppo. Noi ci siamo preoccupati e ci stiamo preoccupando e volevo sapere come sostituire queste patatine, tutte queste cose che stiamo cercando anche di fare il cibo, eccetera. È preoccupante, ci dobbiamo rivolgere a qualcuno oppure è l'età, diciamo, questa? Giancarlo, le ricordo il motto di Essere Benessere, che è occuparsi per non preoccuparsi, quindi lei è già in una buona strada perché si è già posto il problema. Certo. Nessuna preoccupazione, guardiamo in faccia la cosa. Sicuramente i bambini in sovrappeso sono bambini che presentano più rischi per la loro salute, perché l'obesità infantile è una zavorra da eliminare al più presto, ma sempre con teste, con gradualità, modificando lo stile di vita, come ci insegna il dottor Berrino, che per questo bambino di Giancarlo suggerirebbe? Allora, purtroppo non ci sono delle cose che si comprano al supermercato per sostituire queste porcherie che ci offre l'industria, tipo le patatine, i ketchup, le maionesi, le cose e così via, no? Si tratta, bisogna rimettersi in cucina. Allora, siccome il fritto piace a tutti e piace anche ai bambini, diamoglielo pure il fritto, no? Facciamo una frittura di verdure, per esempio una bella frittura di verdure, no? Con la pastella, no? Magari una pastella non fatta con la farina 00 alla domenica, una cosa così, no? Possiamo fare una frittura anche con i cereali integrali, fra le polpette con i cereali, ai bambini piacciono tantissimo le polpette con le cereali integrali e verdure, no? Si tratta di trovare delle cose in casa, no, che siano competitive sul piano del gusto, no, con questa roba che ci offre l'industria, no? In casa non ci devono essere mai le patatine, in casa non ci deve essere mai la bevanda zuccherata nel frigorifero, no? E se fuori una volta succede che non c'è niente di grave, insomma, no? Però bisogna che la quotidianità a casa, e bisogna soprattutto che i genitori diano l'esempio. Non si può pensare, no, proprio di dice io glielo dico di non bere la Coca-Cola ma lui la beve lo stesso, no? E non ha senso questo, no? Non ci deve essere, no? E i genitori devono cambiare loro in prima. È faticoso, ma è proprio un lavoro che si deve fare a livello familiare, non c'è verso. Esattamente, è tutta la famiglia che si deve mettere in riga in qualche modo, insomma. Andiamo a Roma, ci aspetta Francesca. Buongiorno Francesca, benvenuta. Buongiorno, grazie. Ci racconti, Francesca? Niente, io ho sentito prima il dottor Berrino che diceva del grasso sull'addome e sulla pancia. Io sono sempre stata un po' abbondante. Forte, diciamo, di pancia, come si dice. E allora mi ha messo un po' paura, a parte il fatto che io sono a dieta per via della tiroide, quindi ho perso già un bel po' di chili. Certo. Ecco, perché volevo stare un po' più tranquilla sul fatto del... Francesca, posso sapere la sua età? 54 anni. Allora, il grasso addominale è un grasso cattivo, no? Più pericoloso rispetto a quello delle cosce, ad esempio, su cui noi donne ci accaniamo, ma che in realtà non è così pericoloso come quello invece che si depositano proprio intorno al girovita. E Francesca, 54 anni, è come Francesca, molte donne che stanno avvicinandosi o sono in menopausa vedono proprio la propria costituzione cambiare e, come diceva il dottor Berrini, la pancia diventa più morbida. A questo proprio si dedica, per combattere un po' il grasso addominale tipico della menopausa, uno studio di Anna 4. Esattamente, noi stiamo iniziando una fase pilota di un grande studio in cui vogliamo chiedere la collaborazione di migliaia di donne, e vogliamo proprio migliaia di donne che siano in menopausa e che abbiano una circonferenza vita misurata con il centimetro della sarta superiore a 85 centimetri, no? Sì. Proprio perché sono donne un po' più a rischio, no? Quindi facciamo un esame del sangue per vedere altri fattori di rischio eventuali, no? Proprio per vedere l'obiettivo è di valutare se riusciamo a modificare il rischio di ammalarsi a noi. Siamo all'Istituto dei Tumori, quindi ci occupiamo di cancro della mammella, ma questo tipo di obesità è associata al diabete, è associata alle malattie di cuore, è associata all'Alzheimer, è associata a tante delle malattie croniche di oggi, insomma, no? Per cui tornare indietro. E questo è uno studio che sta per cominciare, no? Per chi vuole avere informazione può andare a guardare sul sito internet dell'Istituto dei Tumori oppure può telefonarci, no? In modo da... Per ora lo studio parte a Milano e in qualche posto in Sicilia, ma si estenderà anche in altri posti. Quindi basta andare sul sito, noi faremo naturalmente come sempre dall'home page di Essere Benessere il link, e quindi le donne che hanno queste caratteristiche possono avere una chance per... Studio usiamo anche un farmaco che si usa per la prevenzione del diabete, che è la metformina, un farmaco molto tranquillo, no? E comunque... le donne sono poi invitate a venire alle riunioni in cui noi spieghiamo. E comunque attività fisica, riprendere un po' di attività, certo. Fisica, noi ogni venerdì diamo consigli con il dottor Franco Confalonieri sull'attività fisica più indicata, proprio per farla diventare una compagna di vita, e naturalmente seguire un po' i consigli che abbiamo dato oggi grazie all'aiuto del dottor Berrino, proprio per modificare, dare una svolta alla nostra dieta. Anche la nostra amica potrebbe provare ad esempio con i 3 giorni del digiuno di riso, certo. Poi magari scriverci, e chissà mai che una delle tante donne che parteciperanno a Diana 4 magari non voglia raccontarci step by step il suo percorso ai microfoni di Radio 24, e quindi attivare le donne all'ascolto a prendersi cura di sé. Già adesso molte donne che partecipano a Diana 5 potrebbero essere disponibili per questo. Allora io direi che prima di salutare e di ringraziare il dottor Berrino, saluto il professor Andrea Moro, che è ordinario di linguistica generale all'Università Vita Salute San Raffaele di Milano. Buongiorno professore. Buongiorno a lei. Io avrei un minuto per chiederle, molti di noi adulti al ritorno alla ripresa del lavoro decidono di iscriversi a dei corsi. Durante tutta questa settimana le prenderemo in esame le varie possibilità. Parliamo dei corsi di lingua, molti si iscrivono per migliorare, stavo dicendo il loro inglese, ma può essere spagnolo, francese, oppure per iniziare proprio una buona lingua. Allora, un consiglio e un suo giudizio per chi decide di intraprendere questa strada. Il tempo a nostra disposizione è breve, ma le lascio la parola. È un ottimo suggerimento, direi in sintesi questo: di evitare quei corsi che promettono l'apprendimento passivo con la simulazione di situazioni ambientali tipo alla stazione, in cucina, eccetera. Sì. E invece di far ricorso alle vecchie grammatiche descrittive. Questo naturalmente se la persona che decide di apprendere una seconda lingua è un adulto. Perché dico questo? Perché si sa ormai almeno da 2 punti di vista, quello clinico, neuropsicologico e quello linguistico, che esiste una specie di spartiacque naturale per l'apprendimento spontaneo delle lingue, che è grosso modo la pubertà. Il cervello si disattiva a quel punto e poi si può solo far ricorso all'esercizio e alla memoria, esattamente come quando dovevamo imparare latino. Il latino. Esatto. E questa ipotesi però tutto sommato ha dal canto suo il vantaggio che il cervello è comunque programmato per capire soltanto le lingue di un certo tipo, cioè le lingue umane. Un'espressione che io utilizzo, che mi è cara, è di dire che in realtà il cervello si muove sempre all'interno dei confini di Babele, cioè coi confini naturali coi quali siamo stati progettati. Quindi se vi iscrivete ad un corso di lingua dovete essere pronti a mandare a memoria le regole, un po' come si faceva quando eravamo sui banchi di scuola. Oggi riprendono tutti gli studenti a imparare il latino. Professore, io la ringrazio per essere stato con noi, le auguro una buona giornata. Buona giornata anche a lei. Dottor Berrino, grazie, noi ci sentiamo prestissimo. Ricordo di Anna 4, se volete tutte le informazioni sull'Istituto Nazionale dei Tumori e naturalmente sul nostro sito. Dottor Berrino, alla prossima, grazie. Grazie a lei. Appuntamento a domani, come sempre io vi invito a portare con voi un amico. Grazie, buona giornata. Essere e benessere.